24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano lo storico taglio dei tassi della BCE che li ha portati sotto l'1%, le borse però non festeggiano. Parlando alla Camera, il Premier Mario Monti definisce il Consiglio europeo di fine giugno come una svolta di dinamismo politico e tranquillizza, le conclusioni del summit non cambieranno. Oggi vi racconteremo l'Europa dei tagli e dell'austerità, vi spiegheremo la scalata di Volkswagen a Porsche e vi porteremo a Londra per l'inaugurazione di The Sharp. In apertura l'atteso taglio dei tassi da parte della BCE. La Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso di riferimento dell'Eurozona di 0,25 punti base, portandolo allo 0,75% dall'1% precedente. L'economia dell'Eurozona resta debole e permane una elevata incertezza, ha affermato il presidente della BCE, Mario Draghi. Sentiamo il commento di Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte. Come previsto, la Banca Centrale Europea ha tagliato il principale tasso di rifinanziamento delle banche dall'1% allo 0,75%. Per lungo tempo si è creduto che l'1% fosse una soglia al di sotto della quale la BCE non sarebbe mai andata. Quello che invece ha stupito è che la BCE ha anche abbassato a zero il tasso sui depositi, cioè i depositi che le banche fanno presso la BCE stessa, non verranno più remunerati. E con questo la BCE ha voluto dare un segnale che vuol cercare di mettere in circolo questo denaro e non vederlo ridepositato presso di sé. L'altra conseguenza principale del taglio dei tassi sarà che probabilmente l'euro tenderà a indebolirsi un po' e questo dovrebbe avere un effetto positivo sull'economia. E ascoltiamo ora un passaggio della conferenza stampa di Mario Draghi. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base. La pressione sull'inflazione è calata ulteriormente e le attese circa l'inflazione per l'area euro restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo, la crescita economica della zona euro resta debole e permane un'elevata incertezza. Sulla decisione di oggi posso dire che è stata presa all'unanimità su tutti i fronti ed è un elemento che credo rafforzi in modo particolare questa decisione. Riguardo il quadro economico dell'area euro, per quanto debole sia il quadro economico, non è però grave come quello del 2008-2009. Non ci troviamo assolutamente come a quel tempo. Siamo in una situazione con crescita sostanzialmente a zero e continuiamo ad attenderci un lento avvio di ripresa a fine anno, anche se si sono materializzati i rischi al ribasso a carico dell'attività economica. Ma le borse non hanno festeggiato, subito dopo la decisione della BCE e le parole di Draghi, pesanti cali soprattutto a Piazza Affari e a Madrid. La borsa italiana è arrivata a perdere il 3,5% per chiudere con una discesa del 2%. I mercati avevano in parte già scontato il taglio dei tassi. Tensione anche per i titoli di Stato, con i rendimenti BTP a 10 anni che sono arrivati al 6%, chiudendo appena sotto questa quota. Lo spread coi titoli tedeschi è salito a 459 punti. Le conclusioni del Consiglio europeo non cambiano dopo uno o due giorni. Non sono qualcosa che rischia di arrivare in porto solo con uno scheletro, come nel vecchio Il mare di Hemingway. Ad affermarlo il Premier Mario Monti, riferendo alla Camera sulle conclusioni del summit, aggiungendo che si può stare sereni anche se sempre con gli occhi aperti. Sentiamo un passaggio del discorso di Monti. Le conclusioni del Consiglio europeo non cambiano il giorno dopo o tre giorni dopo. Non sono comunque qualche cosa che rischia di arrivare al porto ormai ridotto allo scheletro come nel vecchio Il mare di Hemingway. Nella prospettiva italiana, infine, credo che questo Consiglio sia stato importante. Vi è una connessione sempre più stretta tra vicende europee e vicende italiane. Se l'Italia ha giocato, come quantomeno gli osservatori internazionali hanno creduto di rilevare, un ruolo da protagonista nel negoziato comunitario prima e durante l'incontro di Bruxelles, è stato anche perché ha potuto contare su risorse fondamentali di coesione politica e di credibilità. Intanto il presidente francese François Hollande e il primo ministro Jean-Marc Ayrault intendono far approvare i risultati del vertice europeo da deputati e senatori già nel mese di luglio, lo riporta il quotidiano Le Monde. 160 economisti tedeschi hanno firmato un appello contro le decisioni prese nell'ultimo vertice di Bruxelles, a riferirlo lo Spiegel Online. Vediamo con grande preoccupazione il passo verso un'unione bancaria che significa una responsabilità collettiva per i debiti delle banche e dell'eurosistema, si legge nel testo. Sul fronte dati preoccupano le sorti dell'industria europea a rischio declino. Mercoledì ritrovato asse italo-tedesco con l'incontro Monti-Merkel, ma c'è anche un asse confindustriale. Nel nome della vecchia cara manifattura, per trovare nel mondo che cambia un ruolo a tutta l'Europa. Giorgio Squinzi e Hans-Peter Keitel, presidenti delle associazioni degli industriali di Italia e Germania, hanno stretto un'alleanza strategica. Il memorandum elaborato insieme non è l'elenco delle legittime istanze di un settore che molti analisti del mainstream anglosassone davano per spacciato, fra terziarizzazione e finanziarizzazione delle economie avanzate. E non è nemmeno un manifesto della nostalgia. È un progetto per il futuro, perché le fabbriche e i laboratori, dove si costruiscono le cose, i beni e i prodotti, non danno solo occupazione e non creano solo ricchezza, conferiscono anche stabilità a sistemi sociali complessi, danno identità, creano cultura, perché alla fine della fiera siamo ciò che produciamo. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La plenaria del Parlamento europeo ha definitivamente approvato, praticamente all'unanimità, lo stanziamento di 230 milioni di euro in garanzie per il progetto pilota di Project Bond da emettere nel 2012 e 2013 per lo sviluppo di infrastrutture comunitarie nei settori dell'energia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione. In primo piano nel dibattito politico italiano la Spending Review, ma ci sono tagli anche in Europa. A chiederselo sono gli stessi eurodeputati. Che senso ha in un momento di crisi economica come questo continuare ad avere due sedi per le istituzioni europee, quella di Bruxelles e quella di Strasburgo? Che senso ha continuare a spendere soldi nel trasferimento mensile degli eurodeputati dal Belgio alla Francia, operazione che costa centinaia di milioni di euro all'anno? E così loro stessi hanno approvato a larga maggioranza un emendamento al mandato per i negoziati sul bilancio 2013, con cui invitano i 27 a non chiedere tagli artificiali al bilancio e difendendo le risorse destinate alla crescita, all'occupazione e ad altri settori in cui i fondi europei possono apportare un valore aggiunto. Della questione si parla da anni, ma la Francia si è sempre opposta a rinunciare alla sede di Strasburgo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 4,46 miliardi di euro. La Volkswagen acquista il restante 50,1% della Porsche. Volkswagen sale al 100% di Porsche con una spesa di 4 miliardi e mezzo di euro. Si chiude così una saga durata 7 anni, iniziata nel 2005 con il tentativo di scalata della stessa Volkswagen da parte della molto più piccola Porsche. Il tentativo è fallito quando la crisi finanziaria ha fatto crollare il valore delle opzioni che Porsche aveva accumulato ed è già dal 2009 che la Volkswagen aveva in portafoglio il 49,9% della rivale. L'operazione annunciata ieri sera permetterà alla Porsche di ripagare il resto dei debiti accumulati per la fallita scalata. Dal punto di vista industriale, Porsche è oramai fin dal 2009 uno dei marchi della scuderia Volkswagen, insieme all'Audi, alla Bentley, alla Lamborghini e adesso anche alla Ducati. Per le famiglie Porsche e PIEC, che controllano sia Volkswagen che Porsche, c'è una ciliegina sul gelato. Grazie a un escamotage legale, la fusione sarà completamente esentasse. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora andiamo a Londra per l'inaugurazione di The Shard, la Skeggia, il nuovo grattacielo di Renzo Piano, con i suoi 310 metri il più alto d'Europa. 12 anni dopo il lancio del progetto, il countdown è terminato. Inaugurazione in pompa magna per The Shard, il grattacielo più alto d'Europa, che da oggi domina ufficialmente lo skyline londinese. 309,6 metri d'altezza, 95 piani, costo complessivo 1,5 miliardi di sterline sborsati dalla Banca Centrale del Qatar. La Skeggia di Renzo Piano sorge su un'area dismessa a sud del Tamigi. Per il 95% della sua costruzione sono stati utilizzati materiali riciclati all'insegna dell'ecosostenibilità. Inoltre prevede solo 48 posti auto. Per i suoi ammiratori è l'icona della nuova Londra, per i detrattori, tra i quali il principe Carlo, un fallo piombato sulla terra. Il critico e curatore d'arte Francesco Bonami. Più che un fallo caduto sulla terra, è una specie di missile che sta per partire verso il futuro. L'inaugurazione segna la fine dei lavori esterni, ma il grattacielo, all'interno ci sono uffici, negozi, ristoranti, un albergo a 5 stelle e una decina di appartamenti super lusso, verrà aperto al pubblico solo a inizio 2013. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava.